Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Francesco Caio, 57 anni, napoletano, ingegnere elettronico, manager Zingaro e Giramondo, un'età beta digitale. Inizia in STET, poi 5 anni in McKinsey a Londra, dove si innamora, si sposa e oggi è padre di due figli. Nel 96 è amministratore delegato di Olivetti, ma due mesi dopo se ne va. Carlo De Benedetti dice: è stato il mio errore portare Caio in Olivetti. Poi con Merloni, che cerca innovazione e la borsa. Ancora a Londra risana il secondo gruppo di telecomunicazioni inglese dopo 3 anni di perdite, annuncia 302 milioni di sterline di utili. Con Letta è gratuitamente commissario dell'agenda digitale. Alla fine, prima di accettare il ruolo di amministratore delegato di Poste, scrive un libro, Lo Stato del Digitale, e il sottotitolo è un urlo di speranza, come l'Italia può recuperare la leadership in Europa. Ecco, ingegner Caio, lei dice si può fare, davvero? Si può fare. Ma che cosa? Dare all'Europa una visione digitale per reinventare le istituzioni e rilanciare la crescita. Ecco, ma si scrive agenda digitale, dice lei, ma si legge posti di lavoro, 250.000, lo ha detto, ma quando? Ci potrebbero essere già oggi, già ieri, se ci fossero le competenze. E dove? In che settore? Ma per esempio nella fatturazione elettronica c'è bisogno di archiviare i documenti in modo digitale. La dematerializzazione è una specialità, una disciplina su cui il mercato chiede e non abbiamo giovani da dare. Ecco, ma nel mondo l'app economy sono appunto i giovani, giovanissimi addirittura, che contano. Ne ha incontrati molto occupandosi di agenda digitale? Tantissimi, tanti anche che hanno studiato all'estero e vogliono tornare in Italia. Ma sono loro i 250.000 posti a cui pensa? Eh? Sono anche loro. Gliel'ha detto alla Madia che deve rifare la pubblica amministrazione? Lo sa. Putin ha affidato il Ministero delle Comunicazioni di massa a un trentenne. Il risultato è 42% dei russi usa l'e-commerce e il 35% fanno banking. In merito di questo ministro? Probabilmente no fino adesso, ma sicuramente una giovane età aiuta molto in questo settore. Lei racconta che i paesi del terzo mondo sono più avanzati di noi nella digitalizzazione. Che passaggi hanno saltato? La rivoluzione industriale. Sono passati dall'agricoltura al digitale. Andranno molto più veloci di noi perché non hanno sassi nello zaino. Certo. Senta, ingegner Caio, lei ha scritto che potremmo essere il traino dell'Europa. Perché il traino? Noi. Noi l'era industriale l'abbiamo fatta. Ma guardi che noi abbiamo competenze, scuole di formazione, applicazioni che sono all'onore del mondo. Noi diciamo sempre che a noi piace dire che siamo in ritardo, siamo un po' in ritardo, ma in alcuni settori siamo all'avanguardia. Ma quali sono queste scuole? Ma il Politecnico di Milano oggi è la terza scuola dopo Oxford e Cambridge a livello mondiale per l'ingegneria. Ce ne sono tantissime altre forme. Io poi sono di parte, vengo certo, dal Politecnico di Milano, quindi non può che dire questo, è pagato per quello. Esatto. Senta, il presidente Letta, nel darle l'incarico per l'agenda digitale, le ha detto che più che inventare gli interessava il fare, cioè? Noi abbiamo come Italia un lunghissimo elenco di progetti messi nel forno, ma li abbiamo lasciati lì col forno spento. Allora si tratta di capire quali vanno portati fino al traguardo e su quelli costruire. Troppa creatività e poca azione. Sì, gli inglesi dicono 1% of inspiration, 1% di creatività e poi il 99% è perspiration, sudore. Ecco, noi il sudore non ci piace. Meno sudore, poco sudore. Senta, però sono gli uffici che hanno digitalizzato, quelli che chiedono più personale. Ma c'è una contraddizione, ma no? Sì, perché hanno digitalizzato sotto l'influenza dei fornitori, invece di hanno messo a video i pezzi di carta e quindi li devono stampare, li devono per metterci sul video, bollo. Non è così che si fa, non si passa di lì, insomma. No. Senta, i fondi europei per la digitalizzazione saranno gestiti dalle regioni. Non è un rischio pazzesco? È un rischio che purtroppo ha già dato i suoi risultati. Noi abbiamo presentato nel giro scorso più di 700.000 progetti, abbiamo portato a casa quasi nulla. Bisogna che le regioni restino in charge, cioè responsabili di queste cose, ma che ci siano dei piani nazionali. Ma mi fa un esempio, per esempio, di una regione virtuosa, c'è? Ma sì, ce n'è tante. Dica una, ma... Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, la Toscana, ci sono degli esempi, ma qual è il problema? È che ognuno si è duplicato il suo sistema, quindi abbiamo i Granducati che hanno digitalizzato lo Stato che avevamo nel 700. Abbiamo un paese solo, cosa ci mettiamo a fare tutti duplicati? Ah, sto paese solo si vede poco. Senta, Renzi ha lo stesso interesse di Letta per l'agenda digitale? Secondo me sì, perché sono proprio, io ho visto, ho lavorato un po' con l'uno, un po' con l'altro, e tutte e due hanno una sensibilità ai temi della digitalizzazione funzionale a uno Stato moderno che non avevo visto prima. Senta, ma a marzo lei ha detto il lavoro è stato impostato sull'agenda digitale, tra 3 mesi ci saranno i primi risultati, siamo a luglio, ci sono i primi risultati? E dal 6 giugno è obbligatoria la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione centrale, quindi vediamo, i primi risultati ci sono. E come li valuta? Molto positivamente, perché poi fanno sono da quelli traino. Che si aspettava? Sono quelli che mi aspettavo e mi aspetto che sia come un po' una bulldozer, una valanga. Nel momento in cui parte un sistema tutte le aziende devono adeguarsi. Ho sentito pubblicità per esempio di fornitori di fatturazione elettronica che vuol dire che è partita volano, una macchina? È un volano. Senta, ma però il suo sostituto ancora non è stato nominato, no? No, ma i progetti continuano ad andare avanti col ministro Madia, che ha diciamo una funzione di supervisione, e l'agenzia digitale è alla ricerca del nuovo responsabile, ma quello attuale è ancora facente funzione, i progetti vanno avanti. Senta, ingegner Caio, lei conosceva già Renzi quando le ha proposto di fare l'amministratore delegato di Poste? Sì. Dove l'aveva incontrato? L'avevo incontrato durante l'attività di agenda digitale, quando lui era solo segretario del partito. Senta, e c'è stata una sintonia immediata sul da fare? Abbastanza, sempre in termini sia di stile che di probabilmente contenuti. Io guardo sempre alla componente, diciamo, economica tecnologica, quindi su quel settore c'è stata condivisione, sì. Ecco, ma anche sul nome del presidente delle Poste lei è stato consultato? No. No? No. Problemi con le deleghe? Con nessuno. Lei? Nessuno? No. Tutte sue? Quasi. Va bene. Senta, che differenza ha notato nell'approccio ai problemi tra Renzi e Letta? Ma guardi, uno più riflessivo Letta, l'altro più orientato a un dinamismo attuativo che mi sembra Renzi. Senta, lei è un manager internazionale, l'abbiamo visto nella biografia, per quanto rapida, scelto per privatizzare e per conquistare i mercati. Le è piaciuto il discorso di Renzi al Parlamento europeo? Sì, perché rimette un po' la politica al centro, dà una visione, un leadership, la generazione Telemaco, poi ognuno usa i suoi termini. Ma ripescare l'eredità dei padri fondatori, reinterpretarla verso il futuro è essenziale per l'Europa. Senta, il suo compito adesso è portare in borsa le Poste, è la mission numero uno. Renzi dice novembre giù di lì, possibile? Ma guardi, noi vogliamo farlo bene e quindi piegheremo il tempo necessario. È un passaggio importante, un progetto importante per l'azienda, un'azienda complessa, ma anche per il paese. Quindi diciamo novembre un po' presto. Potrebbe essere un po' presto. Ma col ministro Padoan ha concordato il percorso? Stiamo lavorando, direi, in stretto contatto, in piena sintonia. Valutiamo tutte le fasi e poi insieme definiremo il piano. Ecco, Padoan si aspetta 6-8 miliardi per il tesoro, sono realistici? Dipenderà molto dal piano, dipenderà molto anche da come i mercati valuteranno quello che faremo come azienda e la credibilità di quello che prometteremo ai mercati. Sì, molto diplomatico. Beh, ma perché sui numeri non si scherza. Ma ha problemi di comprensione con Padoa o no? No, assolutamente. Siete in perfetta sintonia? Assolutamente. Senta, ha trovato l'azienda che si aspettava oppure un'azienda diversa? Ho trovato un'azienda un po' più debole di quello che io mi aspettavo sul versante della logistica, che è un segmento in forte crescita, perché con l'8% di quota di mercato nei pacchi, che è il settore più cresce, c'è tanta strada da fare. Quindi lì è debole, cioè sì, ma allo stesso tempo ho trovato anche un'enorme forza, un punto di forza, che sono le persone e le relazioni umane che l'azienda ha all'interno e sul territorio. Questo è certo, un patrimonio di fiducia che enorme. L'azienda è riuscita a costruire con le sue persone, assolutamente strepitoso. Ecco, intanto alle Poste però lei è arrivato, si è portato un vecchio compagno di avventura in Omnite, Piero Celli, come ringiovanimento, non c'è male. Bisogna ringiovanirsi nel software, non sempre solo nell'hardware. Ah, essere giovani, capisci? Ah, ho capito. Quindi c'è uno che strategica. È una persona che sa leggere molto bene i contesti. Senta, ingegner Chiaio. Abbiamo detto nella scheda che con De Benedetti non è andata bene, la considera il suo errore numero uno, ma che cosa è capitato fra di voi? È capitata, io mi ricordo benissimo del lavoro con De Benedetti, ho imparato tantissimo da lui e abbiamo, non dico insieme, ma anche insieme fatto una delle più grandi imprese industriali italiane che è Omnitel. Assolutamente, e allora perché dice... E bisogna chiederlo a lui. Ah, lei non gliel'ha detto insomma quando è andato via. Senta, di lei parlano come di un Bondi giovane, duro e fumantino, visto così non dire però, non so, che dice, è vero? No, secondo me no, però bisogna chiederlo a chi ha lavorato con me o chi lavora con me. Ma quando si arrabbia dicono che lei tira gli oggetti, è vero? Ma ho fatto solo un tiro, un volo molto buono, che è quello di Vega, un volo strepitoso, il più bel lanciatore al mondo oggi. Senta, ingegner Caio, il suo difetto peggiore qual è secondo lei? È troppo corta la trasmissione, bisognerebbe chiederlo ai collaboratori. No, lo chiedo a lei, il suo difetto, non lo sa? Lo sa. Ce n'è tanti. Vabbè, tanti è come nessuno. Vabbè, non ha difetti, no. Ho capito. Va bene. Senta, nel suo ruolo lei deve scegliere le persone molto velocemente, spesso. Si fida di più del suo intuito o dei cacciatori di teste? Allora, ecco qui il difetto. Io mi fido molto del mio intuito e forse dovrei aspettare un po' più i consigli degli altri. Perché è un difetto? No, perché a volte mi sono trovato in delle condizioni in cui poi ho dovuto risistemare. Ma cosa la colpisce di più in una persona in genere? La componente umana, cioè la condivisione di un progetto. Torniamo alle poste e alla borsa. Cosa deve fare subito per sperare di aver successo? Subito. Stabilire un rapporto positivo con le persone dell'azienda. Questa è il primo secondo passo. Me è essenziale, perché questa è un'azienda di persone ed è un'azienda che ha bisogno, da come la leggo io, di essere chiara nei suoi obiettivi, nei suoi orizzonti di sviluppo. E i mercati cosa chiedono come prima cosa? Chiarezza. Ecco, ma sarà facile andare dagli investitori e dire che intanto siete in Alitalia? Ma Poste in Alitalia è una cosa che davvero distinto non la capisce nessuno. No, però bisogna chiederlo se serve ai clienti. Io parlo sempre di lì. Allora, noi abbiamo la possibilità di svilupparsi, e non più che la possibilità, abbiamo l'obiettivo fermissimo di sviluppare la nostra presenza nella logistica. Sì. Può una partecipazione in Alitalia e le sinergie che stiamo realizzando con Alitalia essere funzionale a questo percorso? E quanto bisogna pagare per farlo? Se c'è risposte positive a queste domande, ha senso starci, se no no. Senta, ma l'operazione Etihad si può fare senza di voi? Parliamo in concreto. Si può fare se si trovano i capitali per farla. No, ma in concreto, mi pare che senza di voi è difficile. Ma solitamente è bene fare operazioni accompagnando con la compagine nazionale che c'è, ma dipende poi dalla specificità del business plan che troveremo. Allora, diciamo una cosa, qual è il vostro ruolo nella trattativa? Ma noi in questo momento c'è una delega al management all'Italia nella trattativa in questa fase e poi vedremo quando incontreremo Etihad quali saranno le prospettive per una nostra partecipazione. Quindi voi per oggi, per adesso, non parlate con Etihad? No. Soltanto i manager di Alitalia? Sì. Perché? Ma perché penso che sia naturale in questa fase, assolutamente. Ma vi convince il loro business plan? L'avete visto già o no? La stiamo analizzando, troppo presto per dirlo. Mi sembra che contenga degli elementi di grande interesse per e voi. Per noi sia basato su ipotesi solide. Vediamo come evolve. Senta, il contenzioso di Alitalia però è molto alto con le altre compagnie, Winjet, Toto, eccetera. L'avete valutato? Lo si sta valutando in termini tecnici con i nostri advisor, troppo presto per dirlo. Senta, con i sindacati sembra già scontro. La Camusso ha detto no ai 2200, 2300 esuberi. È guerra, quindi lì. Bisogna chiederlo a chi sta gestendo la trattativa. Ah, che reticenza. Il 25 luglio voi vi incontrerete con i sindacati. 22, scusi. Metodo Renzi o concertazione? Ma io ho sempre pensato che la discussione e il dialogo col sindacato sia una parte essenziale di qualsiasi piano industriale. Quindi spiegazione, condivisione, confronto. Quindi concertazione. No, concertazione è un termine che ha vissuto dal 94 in poi delle evoluzioni semantiche che non ho seguito dall'Inghilterra. Preferisce lasciare stare la parola. Esatto, cioè, dico, chiarezza. Chiamiamo le parole. Senta, però accordi, c'è un processo di accompagnamento così. Ma le poste italiane sono un'azienda talmente complessa e presente di persone, che non qualsiasi piano è imprescindibile da una condivisione e spiegazione con tutti gli stakeholders. Senta, ma avremo hostess trasformate in postini alla fine di questo processo di ristrutturazione? Non penso. Senta, i pensionati, però i piccoli risparmiatori che sono la parte consistente di quelli che danno soldi a Banco Posta, ma saranno contenti di vedere i loro soldi in Alitalia? Guardi, ripeto, se c'è una logica industriale, se c'è una logica finanziaria, l'investimento ha senso, e se no, no. Cioè, siamo al 6, quindi vuol dire che la valutazione è ancora presto, non è detto che sia sì. Non è detto che sia sì, non è detto che sia no, okay. È il processo. Siamo al processo, siamo ai processi. Senta, ma come pensa di evitare l'effetto Fincantieri, che all'ultimo momento i grandi investitori poi sono scappati? Bisogna spiegare bene al mercato che cosa si sta vendendo. Poste Italiane sono di fatto tre aziende, un'azienda di logistica, una banca e un'assicurazione. Dovremmo prenderci il tempo necessario, che stiamo valutando con il ministro Padoan e l'azionista, perché il mercato abbia chiaro che cosa vendiamo. Ecco, per andare in borsa, anche i crediti con la pubblica amministrazione dovranno essere garantiti in tempi certi, perché sennò... Certo. Ecco, quanti sono intanto? Allora, mi coglie impreparato non sul numero, ma sul fatto se siano stati resi pubblici oppure no. Siccome un buon percorso di virtuoso è quello che le aziende in borsa gestiscono con attenzione le informazioni, faccio la verifica e glielo faccio sapere. Va bene, ok, lo daremo domani. Senta, ma i tempi? Il quanto va bene, ma i tempi per garantirli, anche questo? Quello che le dicevo... Fa parte dello stesso problema. Ma cioè bisogna andare sul mercato avendo chiare le risposte alle domande degli investitori. Questa è sicuramente una delle domande. Bisogna costruire delle risposte vere, certificate, da dare al mercato in quel momento. Ecco, oggi in molte zone del paese, lei l'ha anche un po' detto, le poste sono l'unico presidio dello Stato. Ecco, ma per andare in borsa voi potrete mantenere il servizio postale universale? Questa secondo me è una delle domande centrali che fondano le nuove poste. E proprio questi giorni, anche nella commissione della Camera su questi temi, emerge proprio questo. Certo, perché siete lo Stato, ma in molti posti siete lo siamo Stato. Ma la faccio dire in modo leggermente diverso. Lo Stato, la comunità, ha chiesto e chiederà alle poste di fornire un servizio. Bisogna definirne bene i confini, i perimetri e le modalità, perché questo ha dei costi e gli investitori, piccoli o grandi, vorranno capire quali sono i nostri obblighi, la nostra missione di servizio prima di investire. Senta, tradotto in numeri, si parla di 30.000 esuberi potenziali possibili alle poste, è vero? No, parliamo di piani e parliamo di sviluppo, di investimento, di crescita, perché questo è quello che abbiamo in testa. Ma l'ha sentito anche lei sto numero? Ma sì, ma guardi, quando si fanno i piani industriali Si danno i numeri. Allora non diamo i numeri, guardiamo agli obiettivi dell'azienda. Ecco, ma rispetto a questo presidio del paese, al momento della nomina il governo vi ha dato una mission precisa o no? Ma sicuramente una delle mission è stato quello di continuare a essere un motore per l'ammodernamento del paese. E lei pensa per esempio a tutto il tema dei pagamenti e di quanto poste hanno fatto e possono fare per la digitalizzazione del paese, questo sarà uno dei pilastri del piano. Ecco, ingegner Caio, ma esiste la possibilità, ne ha accennato prima, di vendere le poste a pezzi dividendo assicurazioni, banche e servizi? Oggi noi stiamo lavorando su Poste Italiane Comuni Group. Quindi questa è una possibilità remota per ora? Secondo me sì. Senta, ingegner Caio, molti dicono che se fallisce la privatizzazione delle poste, forse enfatizzando, dice fallisce l'Italia. Ma noi siamo qui per farla bene. No, d'accordo. Quindi lavoriamo sull'ipotesi di lavoro positiva, scusi. Che cosa la appassiona di più di questa avventura? Le persone. Sì. Le persone. Ma in due mesi già, no, quanto? Da quanto è lì? Sì, un mese e mezzo. Già sei innamorato di un sacco di persone lì? No, perché voglio dire, ha trovato l'abbiamo fatta male forse la domanda all'inizio, ha trovato consistenza di preparazione imposte? No? Assolutamente, ma poi sì. sia sul versante, mi lasci dire, analitico della competenza, ma anche su quello della passione e del rapporto umano, che oggi nel rapporto col cliente sono valore enorme. Cioè le Poste oggi hanno costruito un concetto di fiducia e affidamento. Gli si affida le lettere, gli si affida il risparmio. Ecco, noi secondo me su questo punto, questo è il valore vero e su questa la sfida incalcolabile. Esattamente, su questa piattaforma che bisogna costruire. Ecco, il rischio più grande che vede qual è invece? Ma ce n'è tanti, perché se lei pensa al processo di sostituzione digitale e tecnologico di alcune cose che noi stiamo facendo, dalle lettere ovviamente ai pagamenti, noi dovremmo continuare a essere molto vigili e a accelerare il ciclo di innovazione. Ma il mercato della distribuzione cresce o no? Il mercato della distribuzione, il nuovo commercio cresce, perché molte imprese non vendono più solo nei negozi, ma sempre più anche sulla rete, e poi però gli atomi hanno bisogno di essere trasportati e noi possiamo farlo. Ma anche sul versante del risparmio gestito, con tassi bassi, le famiglie, il mercato ha interesse che ci sia un soggetto di cui si fidano che può accompagnarli nella gestione del risparmio. Ma le banche cominciano a viverli come un pericoloso concorrente? Mi auguro come un rispettabile concorrente. Mm. Le faccio un'ultima domanda, ingegner Caio. L'ultima cosa che mi ha colpito è che dopo l'ultimo consiglio di amministrazione che avete fatto, voi avete fatto un comunicato unitario. È un metodo nuovo di gestione? È la palestra verso la privatizzazione. Il mercato ha interesse di capire che cosa succede in azienda. Dare trasparenza dà valore. Grazie, a auguri. Mix 24. Allora, titolo. Che titolo? Non c'è posto alla posta, piuttosto esuberi. Mario? È andato in buca. È andato in buca? Sì. Cioè? È la buca delle lettere. No, è andato in buca bene. Va bene. Non ho allora... idee chiare, Caio. Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Pietrangelo, eccomi. È l'ultimo giorno. E nell'ultimo giorno offro l'infinitamente piccolo, il vero Francesco. L'hai incontrato lì? Il vero Francesco si incontra sempre, soprattutto perché nell'infinitamente piccolo ritroviamo noi stessi dentro il cosmo, e Francesco, il vero Francesco, che non è certo quello delle mistificazioni molto in voga in questo periodo, e non mi riferisco solo ai guitti, ma mi riferisco anche a chi vuole fare vabbè, di Francesco. Infinitamente piccolo, hai trovato il bosone di Dio. No, l'infinitamente piccolo è quel messaggio meraviglioso che in questo preciso momento Francesco Branduardi ha saputo dare voce, perché abbiamo bisogno di questo meraviglioso santo che venne definito il più santo degli italiani, il più italiano dei santi. E non rivelo la fonte, altrimenti... potrebbero licenziare, solo che ormai è l'ultima puntata e mi sfogo. Licenza, cioè stanno a manna via. Allora, Francesco Babilonia predicare. Andiamo con le bolle. Ma allora, le ultime bolle. Uno, il Faust. Guarda, buttafuoco è già tutto preso. Sì. Allora, sapete che Marenzi è Mefistofele? No, perché qua perché qua lo scontro con Jens Weidmann, il capo della Bundesbank, ha molto molto molto di letterario, di culturale, di filosofico e perfino di religioso. Allora, Weidmann è nato a Solingen, nel nord Reno della Westfalia. È un land che è il cuore della Germania, è un luterano. E allora? Renzi invece è uno scout, è cattolico. Sì. Sapete cosa dice Weidmann della creazione di moneta, cioè dello stampare moneta? Cosa dice? È opera del diavolo. Anche lui? Sì, lo dice e lo dice in un discorso ufficiale del 12 settembre del 2012, dove dite... permettetemi di ricordare la cosa della creazione della moneta del Faust, dove Mefistofele a un certo punto, l'imperatore dice: ci manca il denaro, e Mefistofele dice: ve lo farò. Questo è Draghi, lo scontro è Draghi, di oggi. Questo è Draghi. Questo è Draghi. Quindi Draghi. Vedi come questa storia è molto interessante, molto interessante e profonda. Vedrete cose incredibili. E questo è molto interessante. Salamini. Allora, senza egemonia culturale, è stato per tutti noi questi anni Forza Italia e Berlusconi, il berlusconismo, ma finalmente c'è un Max Weber per l'occasione. Non sapete ci posso chi è? Credere. È Denis Verdini. Denis Verdini, che ieri ha consumato il suo duello rusticano con Renato Brunetta. Mi sembra che vabbè, una sproporzione fisica. Però Brunetta, insomma, si sa difendere. In questo duello che si è consumato ieri in un'assemblea che poteva essere pesantissima, io oltretutto mi sono gustato le cronache, è successo che lui se ne è uscito con questo concetto: carisma o carisma che dir si voglia. E con Max Weber alla mano ha svelato quello che ormai è il destino di Forza Italia. E cioè questa colonna sonora lo spiega benissimo. Ormai lui, come dicono quelli saputi, è gay friendly, insomma. E poi Verdini è l'uomo vero. Perché vi do una notizia. Non è possibile che oltre tu abbia una ad notizia. Essere speculare, grazie. Questa è carina. E certo, perché la qualità professionale me la faccio spiegare da sé. Finalmente litigano. L'ultima puntata. Sapete che vi dico? Vai con Verdini. No, vado più con Verdini. No. Voglio sentire la darò la notizia a Giuseppe Falci, che la pubblica sul Fatto Quotidiano. Dai la notizia. Niente, continuiamo con la musica. Mamma mia, che permaloso. È terribile, però è bello perché è così. Perché è terribile. Giuseppe, poi ti do la notizia. Quota rosa. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, dacci la notizia, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua. E allora? Stai partendo per le vacanze? Esatto, volevo proprio ricordarvi quello, che non c'è bisogno di offendersi e discutere proprio oggi, perché è proprio d'estate che ci lanciamo in avventure, incontri segreti, romantiche scoperte, scherzi e scorribande. Oggi Annalena, sul Foglio, lancia una domanda: bisogna confessare le nostre malefatte o non è giusto scaricare il peso delle nostre colpe su chi è anche la vittima alla fine delle nostre azioni inconfessabili? Allora, 349-238-6666, raccontateci un episodio che non avete avuto il coraggio di raccontare a nessuno, tanto oramai, voglio oramai dire, è finita, ci conosciamo bene, brava, coinvolgiamo i nostri radioascoltatori. Siamo pure interattivi. Beh, adesso. Non male, eh? Bestiale. Bella questa. Bestiale. Beh, però tu intanto c'hai una bolla. Sì, un po' di musica. Bello, eh? Ricorda Zorba il Greco. Ci manca Enrico dalla Grecia. Enrico dalla Grecia non ha scritto. Oggi vabbè, niente. Andrò breve, sarò breve. Vi ricordate il Grexit, che era l'acronimo, no? Che era stato coniato per dire che la Grecia usciva dall'Europa. Finito tutto, sì. La Troica ha ben strangolato la Grecia, che è rimasta in Europa. Adesso però c'è il Brexit, cioè i Britons che escono dall'Unione Europea. Succederà? Non si sa. C'è in un rapportino fatto dagli irlandesi, però è un rischio che si dice abbastanza concreto. Hanno due appuntamenti: a settembre il referendum sulla secessione della Scozia, nel 2017 il referendum se restare o no nell'Unione Europea. Sarà Brexit? Boh. Vediamo nel caso God Save the Queen. God Save the Queen! Allora, c'è un'altra cosa, rapidissima. Senti qui. Ah! Ero in un posto piccolo, con i vetri scurati. Era già sera e camminavo a Villa Giulia quando, all'improvviso, ho capito che non volevo essere come tutti e neppure un padre infedele. C'era la luna in alto e a un certo punto ho visto una strega. Poi mi sono svegliato. Era solo un sogno che non s'avvera. Recita oggi lui, eh? Che Pietrangelo. Paura. Recita lui oggi. Ho fatto il buttafuoco. Ma era lo strega. Vabbè. Con la strega. Quello che vi racconterà nella seconda ora Marina Milone è la storia di Vittorio Gassman. A raccontarcelo un breve estratto sono figli e amici. Io non ho mai conosciuto una persona più leale, più educata e più straordinaria come compagno di lavoro. Lui aveva una qualità rara che nessuno gli riconosce, ma io che l'ho vissuto nei momenti più belli. Era la persona più divertente in assoluto, più creativa anche, che abbia mai conosciuto. Il pubblico ha sempre pensato un uomo molto sicuro di sé, molto forte, non è vero niente, ho scoperto questo, di essere fragile come una mammola. E quindi bisognosa di protezione, colgo tutte le occasioni, compresa questa gradevolissima, per dire anche a tutti, insomma, proteggetemi. La depressione, ecco, la depressione è stata la sua vera grande malattia. Canzoniere. Fabbricare, preferisco il rumore del mare che dice fabbricare, fare, disfare, tutto un lavorare, ecco quello che so fare. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, per questo ultimo canzoniere, ma intanto facciamo ancora un salamino. Salamini in epoca di conformismo compiuto. Siccome nessun giornale della RAI, nessun Mediaset, nessun La 7 ha mandato in onda quello che è stato il vero rivoluzionario discorso esplosivo in tanto trionfo d'Europa, lo faccio io e ve lo faccio ascoltare. Un Matteo Salvini al, come dire, alla nitroglicerina. Ascoltate. Questo palazzo è il palazzo dell'ipocrisia e della menzogna, perché ci sono due soldati, non italiani ma europei, da 2 anni in galera in India. Non una parola. Il corridoio umanitario avrei voluto ci fosse per i 150 imprenditori italiani che si sono suicidati per la crisi economica l'anno scorso. Lo vorrei per i pensionati massacrati in Italia e nel resto d'Europa perché lo chiede l'Europa. Non una parola sulle banche. Questo palazzo e la commissione fantasma sta ingrassando 1 miliardo di euro alle banche senza che una lira arrivi ai risparmiatori, agli imprenditori, agli artigiani, alle famiglie. Questa Europa sbagliata, questa moneta sbagliata stanno rubando futuro e speranza. Terribile, eh? Ecco, senza nome questo messaggio. 7 anni che ho un amante, io sposato con 2 figli che ha 10 anni più di me. Ecco, questo è il mio segreto. PS, niente cognome, niente nome e cognome. Meglio. Vabbè, ok. Mix 24. Giovanni? Sì? Allora, a parte che ci è arrivato un messaggio, che ci dice? Bacchettano, ci dicono litigare controproducente, quindi tornate in settembre? Sì, torniamo, sì. Speriamo. E poi volevo dirvi, io avrei fatto un'intervista. Mandala. Vai. Pugliese, migrata a Roma, scrivi per vari giornali ed è da poco uscito il tuo libro Siamo tutti puttane. A 28 anni, cosa ti va stretto del modo di pensare in Italia che ti ha spinto poi a scrivere questo libro? Ma il mio libro è un grido liberatorio contro il politicamente corretto, che molto spesso invade il dibattito pubblico a vari livelli. Io credo che sia molto più diffuso proprio nel dibattito pubblico che non poi nella vita normale di tanti e tante italiane. Il tuo libro dici che è una presa d'atto di come va il mondo. Come va il mondo secondo te? Ma il mondo va che ciascuno di noi nelle proprie relazioni personali cerca di effettuare uno scambio. Il mio libro è proprio un elogio dello scambio tra quello che io voglio dall'altro e quello che l'altro chiede a me. Tu dici che ognuno di noi sgomita, no, per arrivare dove vuole, ma scusami, sgomitare cosa c'entra con l'essere puttane? Io esalto chi non sta lì ad aspettare che il destino gli porti quello che vuole, no? Io invece tu dici libro... bisogna giocarsi tutte le nostre carte, qualsiasi. È la mia opinione, ma nel mio libro dico, non voglio dare un insegnamento e dire agli altri quello che devono fare. No, tu dai la tua opinione. Ci sono anche le persone, tra virgolette, puttani e puttane, cioè ci sono anche, hanno diritto di cittadinanza, tutte quelle persone che invece, nel rispetto della legge, cercano di sgomitare, di arrabattarsi come possono. Sarà, c'è anche questo aspetto, cioè che non tutti ovviamente nasciamo in un sistema di famiglia o di che ci mette subito a disposizione tante carte nella vita, no? E chi non le ha, secondo me, quando si dà da fare davvero in ogni modo per riuscire, è una persona da pensare. Ma ti riferisci alle oggettine che per esempio citi, diciamo, brevemente nel tuo libro? Queste ragazze sono state stigmatizzate e additate da altre donne, cosa questa ancora secondo me più fastidiosa e sgradevole, come dei modelli sbagliati, come delle donne di serie B. Io l'ho trovato veramente ributtante per un semplice fatto: chi siamo noi per giudicare i sogni degli altri? Chi sono le ninfomoraliste ipocrite? Ma vari esponenti, in particolare del movimento Se non ora quando, che mi sembra che da quando Berlusconi è in disgrazia anche il movimento, diciamo, si è un po' assopito, un po' sgonfiato. Però, sì, io credo, Sara, che non esista un sacro canone del femminile. Non è che siamo donne giuste se assomigliamo a Concita De Gregorio o alla Aspesi o a Barbara Spinelli. Cioè, per Concita fortuna... De Gregorio la potremmo mettere nel calderone delle ninfomoraliste ipocrite. Sì, lo dico perché poi è molto triste che proprio delle esponenti della sinistra che negli anni 60 faceva la liberazione sessuale si sono poi ridotte negli ultimi anni come le peggiori parruccone. Quindi viva Cleopatra? Viva Cleopatra, che sa usare anche le sue relazioni sentimentali nell'ambito di una politica invece strategica internazionale. Annalisa, quali sono le battaglie concrete che le donne devono vincere oggi, secondo te? Le vere battaglie sono sicuramente tetti di cristallo nel mondo del lavoro, gli asili nido che non ci sono, esatto. E i diritti civili, perché in Italia l'aborto, che in qualunque parte del mondo civile occidentale è qualcosa di assodato, in Italia invece abbiamo 80% di ginecologi che a causa di una cattiva applicazione della legge sono obiettori. L'altra grande battaglia è la procreazione medicalmente assistita. Annalisa, l'Italia ha avuto Oriana Fallaci, ma non ha mai avuto una Camille Paglia. Senti il peso della responsabilità proclamando siamo tutti puttane? Beh, Camille Paglia e Oriana Fallaci sono nel mio pantheon. Io cerco di essere come meglio riesco Annalisa, cosa che non mi riesce sempre facilissima, però ecco, a loro guardo con un misto di rispetto e di devozione. Michele da Barletta, forse hai indovinato il nostro canzoniere. Michele, sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Sì, è una poesia che conosco bene, è Dino Campana, Fabbricare. Giusto. Bravo, è vero. Perché no, un amante di Campana? Sì, sono stato anche fortunato perché io, mia moglie che è laureata in lettere ed era una poesia che piaceva moltissimo a lei e me la sono ricordata subito appena l'ho sentita. E cosa sta facendo? Dov'è che ascolta la radio? Adesso sono in macchina, sto andando al lavoro. Che lavoro fa? Sono avvocato. Ah, avvocato. Bene, grazie. E allora 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS, professore, è al telefono. Sì, buongiorno. Buongiorno, come andiamo? Va bene, io ultimo sono giorno. Sono a Stoccolma in questo momento. A Stoccolma? Ma sì. Sempre in giro, eh? No, beh. Con la sindrome o senza? Giusto. E allora? Allora la televisione non l'ha vista. Però so tutto, ugualmente. Sì. Perché sentite questa canzone. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Vabbè, intanto prima di sentire il professore ringrazio tutti quelli che ci stanno scrivendo per... abbiamo avuto tanti insulti durante l'anno, adesso abbiamo tanti complimenti per la trasmissione che abbiamo fatto e quindi vi ringraziamo tutti, speriamo di avervi tenuto, di essere riusciti a tenervi compagnia in questi mesi e spero che ci rivedremo a settembre. Professore? Allora, che cosa lega una canzone napoletana al Dalida e alla tradizione canzonettistica francese? Apparentemente nulla. In realtà ieri sera ci ha spiegato tutto, perché è andato in onda su Premium, una rete di cui parliamo poco, quindi cogliamo anche questa occasione, sono andati in onda due film in sequenza. Il primo è Che l'Exist, cioè quello che in Italia è diventato giù al nord, un grandissimo successo in Francia, che è arrivato in Italia con un discreto successo, ma soprattutto ha avuto enorme successo il suo remake, che è Benvenuti al Sud, che è la trasposizione. Gli Echtis sono coloro che vivono al Pas-de-Calais, nell'estremo nord della Francia, e dove, come, ci sono molti problemi, non è, la qualità della vita non è altissima, però come dice il film, insomma, si piange due volte, la prima volta quando si arriva, la seconda volta quando si deve uscire, si deve ritornare a casa. Insomma, questi due film, che sono esattamente l'uno e il remake dell'altro, sono andati in onda nella stessa serata con un'operazione filologica, mi sembra piuttosto interessante, perché si è potuto capire che cosa è successo nella trasposizione dalla cultura, dalla società francese alla società italiana, forse qualche luogo comune in più in Italia, però insomma un'operazione cinematografica di grande successo, merito a Premium che l'ha andata in onda in questa maniera filologicamente estremamente corretta e interessante. Quindi qualcosa di televisione anche ieri sera sono riuscito a capire. Sì, Sara, chiedono il nome dell'intervistata perché hanno non ragione, l'hai dato. Hanno ragione, Annalisa Chirico. Annalisa Chirico. Sì. Ok? Sì, e il libro, voglio dire, penso che il titolo si ricorda, si è capito, sì, siamo tutti puttane. Vabbè, insomma, è allegria. Allora, professore? Allora, posso rivelarvi anch'io un piccolo trucco, e tanto ringrazio tutti, anch'io per l'ultima puntata, ma un piccolo trucco che mi unisce al vincitore del canzoniere di oggi. Dica. Perché alcune volte indovinavo, altre no, e sapete perché? Perché mia moglie insegna letteratura italiana. Allora, quando ascoltavo da casa con l'aiutino di mia moglie, riuscivo a indovinare il canzoniere. Quando sono solo, invece un po' meno. Ah, ecco, vabbè. Mi sembrava una giusta confessione da fare. Giusta. Bene, saluti a tutti, vi ringraziamo. Pubblicità. E poi posso salutare, sì, Sara Tardelli, la tua naturalmente, sai, oramai Sara Tardelli c'ha una schiera di fan che scrivono, vogliono che le fotografie, vogliono conoscerla. È Miss Mondiale, lo sa? Miss Mondiale, è stata eletta? Miss Mondiale, perché per un certo periodo ha giocato questo titolo con la famosa Vanessa, la giornalista messicana di cui molto si parlava. Poi dopo che il Messico è stato oscurata anche Vanessa, quindi decretiamo Sara Tardelli Miss Mondiale. Va bene, con questa notizia, arrivederci a tutti. Pubblicità.